difficile, lo so, però musica allo stato puro ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole e avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, veloce per più lenta, violenta sincera. Musica più lenta che mace che spera, veloce per più lenta, violenta sincera. Chi viaggia poco resterà piccino, il cammino di Gigi D'Agostino. If you had a machine that could make you into anything you wanted to be, like anything, what would you be? I want to be the queen. No, I want to be 19. Wait, no, I want to be that horrible thing I saw last night in my dream. I know, I want to be a supermodel. She's European, a lean sex fiend. Oh, thank God I can finally fit in those dumb jeans. Ooh, then it was me, I was her. I waited for something fabulous to occur, something marvelous and absurd. I waited, there was nothing, but I was something. Gorgeous, crazy wealth, and I could always reach the top of the supermarket shelf. Wasn't so smart. Réveille-moi, donne-moi un souvenir, l'amour, la chanson, la poésie et mon cœur, Gigi D'Agostino. Cammino del Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, mica cucciolina. Can't take my eyes off of you.

Thank you.

da Torino con il suo camino. Accelerata, va. Con gli occhi degli altri. Posso solo creare ciò che io credo sia la verità. D'Agostino, dal vivo, sabato sera 19 novembre 2005, Metropolitan Disco Club, via Bernini 24, Casteggio, Pavia.

In sostanza, il mio lavoro di compositore in questo pezzo somiglia un po' a quello di un architetto che progetta un edificio di pietra. Egli ne può disegnare la forma, stabilirne le dimensioni, ma non può progettare la distribuzione e la forma delle singole pietre, perché questo è affidato interamente al mio. Col cuore di un bambino è il cammino di Gigi D'Agostino. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Hey, hey, hey.